Io. Miguel, la sapere. E se ci le femmine sono come lupare. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Quanti pensano all'amore solo nei termini del ricevere? E quanti sono pochi quelli che si concentrano sulla bellissima opportunità del dare, comunque e a prescindere? Ma se ci pensi, la cosa bella di tutto questo è che nessuno di noi può sapere o prevedere che accadrà e con chi. Perché l'amore ti travolge anche nel sonno e non accetta problemi di rete o trasferimenti di chiamata. Per quanto ne sappiamo, domani potremmo essere follemente innamorati. O io potrei esserlo di Claudio Bisio e tu di Nonna Papera. E poiché l'amore regola la vita, ne segue che tutto è stupendamente imprevedibile. Ed essendo tale, accadrà anche a me qualcosa di bello, che non sia l'arido frutto della scelta tra cosa è meglio e cosa non lo è. Mare Euterpe. We'll be right back. volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. Gigi, puoi dire in diretta a Valeria di Peschici? Peschici? Che dici? La cosa... Che stupenda! Che stupenda! Ti prego, fallo. Sono troppo innamorato di lei. Andrea 91. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Per favore, potresti suonare Praise You, Nicolas? Sì, sì. Like I should. We've come a long way. fu capista. Bello questo spettacolo. Non mi vedi, ma che ha fatto adesso? Vabbè, certo. Battemi mano che sta partendo casse basso. Ho già già. Dai e bo sulle mani. Andiamo a 130 e vai. Ciao Gigi, volevo dedicare Star a Gabriel e Chiara per ringraziarli di esistere, perché come due stelle mi indicano la via della felicità e che al suono della tua musica mi accompagnano in quel piccolo paese fuori dal mondo. Nicky da Trento.

quello che volevo. Li vedi? E non so neanche io. A cosa? Dai, che famo notti? Notti. Cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto. Sì, sì. Una pennellata e un colpo di martello a... Giorgio, Luca e Sara da Cosenza, Daniele da Napoli, Gigi da Agrigento. Che sono io? No. Danny da Termini Imerese, Saba da Belluno, Claudia, Daniele da Grosseto. Ma ciao proprio. Voce del Verbo te saluto.